Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ambrogio Invernizzi e in Alpi. Burro, formaggio e cambiamenti. Di Alessandra Scaglioni. Inizia nel 1966, tra l'altro l'anno in cui sono nato io, quindi è stato un momento di decisione importante per mio padre e mia madre, che hanno cambiato completamente l'attività che facevano e hanno deciso di fare gli imprenditori. Inizia negli anni 60 la storia di In Alpi, azienda fondata dal padre di Ambrogio Invernizzi. Tradizione di famiglia ha un'esperienza professionale diversa, quando poi il caso lo riporta al settore lattiero caseario. Di famiglia, di tradizione, il nonno, i bisnonni producevano già formaggio in Valsassina. Infatti abbiamo trovato una lettera del 1820 dove un parroco della zona ringraziava l'avo per il buon stracchino che gli aveva dato. Poi dopo però mio padre, che lavorava a casa sua con mio nonno, dove aveva un allevamento nella zona di Lodi, aveva un allevamento di maiali e un caseificio che faceva gorgonzola, a un certo punto per passaggi generazionali, c'era mio padre e mio zio, cioè suo fratello e mio nonno. Mio padre non gli piaceva il piccolo spazio che aveva, ha deciso di andare a lavorare per una multinazionale dopo una formazione fatta prima in Italia, poi dopo in Germania, e ha girato un po' il mondo. È stato negli Stati Uniti, è stato in Olanda, è stato in Svizzera, e questa multinazionale lo manda a lavorare a Moretta, direttore dello stabilimento di Moretta. Moretta conosce mia madre, che era invece di famiglia di commercianti di vacche, di bestiame, e si sposa. Si sposano dopo che mio padre viene trasferito in altri stabilimenti di questa multinazionale, però già lì era un po' in sofferenza perché abituato a lavorare a casa sua, a essere imprenditore, eccetera, mal sopportava di dover sottostare al capo che gli chiedeva le rendicontazioni. Così inizia una nuova attività imprenditoriale, costruita partendo da un prato regalato per dote, il terreno da cui prende il via l'attività di produzione del burro e di distribuzione di formaggi. Nel novembre del 66 prende la scelta di dire: voglio iniziare una mia attività. E la inizia a Moretta perché mio nonno materno gli regala il terreno, mio nonno paterno gli dà allora 10 milioni di lire e iniziano così facendo un piccolo burrificio, un piccolo commercio all'ingrosso di importazione di prodotti dalla Francia per distribuire sul territorio piemontese. L'azienda cresce importando direttamente la materia prima e producendo burro. La distribuzione avviene attraverso la rete del commercio al dettaglio, negozianti, venditori ambulanti. Cresce, inizia a fare l'importazione diretta, inizia ad andare in Francia, inizia ad andare in Olanda, a cercare di importare dei prodotti, inizia a produrre del burro. Infatti mi raccontava che andava nelle zone delle montagne sul confine di Ventimiglia, tra il Colle di Tenda, a ritirare la panna da questi malgari, e inizia a distribuire, a darsi da fare. E la crescita vuol dire anche una prima strutturazione dell'azienda attraverso l'assunzione di personale. Ma anche in questo caso, imprevedibilmente, c'è un intreccio tra azienda e storia familiare. Il padre vuole sviluppare la parte commerciale e la famiglia si allarga. Nel frangente assume uno responsabile vendita, che quello poi diventerà mio zio, che si dà da fare, che la sviluppa, e lui, perché mio padre come tecnico, invece mio zio che sviluppa la parte commerciale. Mia madre teneva la contabilità, si fa aiutare dalla sorella, lo zio che lavorava in ditta la conosce e iniziano a stare insieme, poi si sposano ed entrano poi dopo in società, perché all'inizio le quote erano 50% mio padre e 50% mia madre. Dopo mia madre cede un 25% come regalo di nozze a mia zia, e allora entrano in società anche loro. Poi mia zia fa il gesto di dare invece a suo marito per farlo sentire secondo socio, gli dà il 20%, lei si tiene il 5%. Così si crea questo inizio di società diviso tra queste due famiglie, legate da questo legame di parentela dalle parte delle donne, e vanno avanti e si sviluppano col commercio del burro. Per circa 15 anni l'attività commerciale va avanti. Poi qualcosa cambia con una nuova idea di prodotto e l'azienda diventa la principale esportatrice di burro verso i paesi del nord Europa, dove rappresenta più dell'80% delle esportazioni nazionali di burro in quei paesi. Ma anche in questo caso, dopo una quindicina d'anni, il contesto cambia, arriva la concorrenza e i margini si erodono. restare in un settore che pur aveva dato grande sviluppo diventa meno conveniente. A questo punto ci spostiamo invece di essere i produttori di formaggio fuso a produrre noi formaggio fuso. Facciamo un grosso investimento, questo inizio anni 90, 94, 95. Iniziamo a fare un investimento dove facciamo il primo stabilimento di formaggio fuso per produrre fettine di formaggio fuso. Iniziamo a produrre fettine di formaggio fuso primo prezzo e private label per le catene di supermercati. Discreto sviluppo sul mercato italiano, iniziamo a esportare, facciamo ottimi contratti anche con la Francia, quindi dopo si decide verso gli anni 2000 di raddoppiare lo stabilimento e di aumentare le linee di formaggio fuso. Un altro cambiamento è però già in arrivo e riguarda sia il prodotto sia il posizionamento sul mercato dell'azienda. Vediamo anche lì che sulle private label e sul primo prezzo i margini si stanno riducendo parecchio e iniziamo anche a chiederci dicendo perché usare perché nelle fettine di formaggio fuso si usavano polveri magari di siero e formaggi diciamo laterali, scarti dei formaggi, e se diciamo ma perché fare questo lavoro qua quando produrre un'ottima qualità, una buona qualità costa poco di più, e poi perché usare polvere invece di non usare latte? Abbiamo tanti agricoltori vicino, noi fino a quel momento non ritiravamo latte fino agli anni 2000, ci abbiamo tanti allevatori vicino, tanti agricoltori vicino, li conosciamo, perché non facciamo delle prove? Iniziamo a fare delle prove su cambiare l'ingredientistica e iniziamo a fare le prove, vediamo che troviamo un prodotto più dolce, più amabile, producendo direttamente del latte fresco. Costava leggermente di più, però era molto più buono. E allora da lì iniziamo a abbandonare il primo prezzo e a spostarci sul top di gamma, servendo le catene sul top di gamma. Il nuovo prodotto viene apprezzato e diventa il futuro dell'azienda, che dopo pochi anni abbandona del tutto le altre produzioni e si concentra sulla raccolta del latte locale e sulle fettine, sia di prodotti a marchio che private label, per il top di gamma della grande distribuzione. Poi arrivano anche i formaggini e, più di recente, si apre anche il filone del latte in polvere. Circa 5 anni fa invece è nata un'avventura diversa con una grossa azienda dolciaria. Abbiamo incominciato la produzione di latte in polvere italiano, unico stabilimento che c'è in Italia di queste dimensioni che fa latte in polvere, perché anche lì sempre perché tutto nasce dal fatto che il latte in polvere era fatto col latte che rimaneva dalla produzione del formaggio. Lo facevano in Nord Europa, era una commodity economica. Ci abbiamo trovato con questa azienda che dice voglio la produzione vicina, voglio controllare la filiera, sono disposta anche a sovraccaricarmi un prezzo maggiore pur di avere la garanzia del prodotto, della filiera, di poter esaminare gli agricoltori cosa danno da mangiare le vacche, come viene trasformato il latte, e abbiamo fatto questo grosso investimento di 20 milioni di euro per produrre latte in polvere in Italia, e questo è 5 anni fa, adesso funziona benissimo, è diventato il primo prodotto dell'azienda per quantità. Fatturato di oltre 110 milioni di euro nel 2013, forte legame con i produttori locali di latte, esportazioni per circa il 10% del fatturato, anche in paesi difficili. Noi ci siamo abbastanza su tutti i mercati in cui riusciamo a trovare buoni partner, che riusciamo ad avere un buon feeling, ci siamo. Cioè anche su mercati lontani, per esempio vendiamo un po' a Hong Kong, vendiamo un po' in Corea, vendiamo in mercati difficili tipo il Libano, tipo la Libia, tipo l'Iraq, perché abbiamo trovato con degli importatori cui abbiamo anche a loro volta aziende familiari in cui abbiamo costruito un buon spirito e li abbiamo da 10, 15, 20 anni questi clienti. Alla prima generazione, alla guida dell'azienda è subentrata la seconda, i tre fratelli Invernizzi e i due cugini. Per l'azienda e per il settore, al sistema paese chiede maggiore semplicità e meno confusione. Per esempio un riordino degli enti di controllo, oggi numerosi e sovrapposti. E intanto c'è una causa intentata da Inalpi per il ritardato pagamento dei rimborsi IVA da parte del governo, già vinta in sede europea e su cui si sta aspettando ora la sentenza italiana per la parte dei danni. L'iniziativa che abbiamo fatto è perché se uno trasforma latte, cosa succede? Il latte alla stalla si paga il 10% di IVA, quando si vende formaggio e burro si incassa il 4%, quindi si ha un credito di IVA strutturale del 6%. E a un certo punto il governo italiano ha deciso, per problemi di deficit vari così, che bloccava i rimborsi IVA. L'IVA è, per direttiva europea, deve essere un'imposta neutra, deve essere pagata entro 3 mesi da quando è stato riconosciuto il credito. Il governo italiano l'ha bloccata e noi ci doveva quasi 2 anni e mezzo, 3 anni di IVA. Con importi, su un fatturato di 100 e qualche milioni, noi siamo arrivati a importi di 12-13 milioni di euro di IVA da dare. Che Sono tanto. tantissimi. Quando pensiamo che il nostro debito bancario è di 40 milioni di euro, 10 milioni in più facevano come? Mi riducevano il debito, mi riducevano i costi di interesse, mi mettevano meno tensione finanziaria, mi avrebbero permesso magari degli investimenti. E allora abbiamo deciso di fare un'azione legale, denunciando l'allora primo ministro e il ministro del tesoro, e intanto intraprendere anche un'azione a Bruxelles. A Bruxelles hanno condannato l'Italia con infrazione, ma adesso, infatti, adesso il governo italiano sta pagando prima. Adesso abbiamo ridotto i tempi di incasso a 1 anno, 10 mesi, sempre lunghi, ma meglio di 2 anni e mezzo. Comunque abbiamo fatto una causa civile per danni, per il danno mancato a questo apporto di liquidità. E il governo effettivamente non si è difeso. Ha detto, è vero, dovevamo pagarlo, ma non... L'avvocatura di Stato ha detto, è vero, dovevamo pagarlo, ma non abbiamo i soldi, quindi non pagavamo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.